Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22 e 4 minuti, questa come al solito è Radio Possum, su 87.9 di Radio Onda Rossa. E come al solito purtroppo c'è Mocio a mettere musica. Perché ora questo inciso così a bluffo proprio? Perché non c'è nessun altro che la mette, eh? Magari se tempare usa il mixer, eh? Ma io sono più un uomo dei concerti. Sei arrivato quasi alla fine della tua vita e ancora non sai usare un mixer. Più di un anno in radio senza sapere usare il mix. Bravo, bravo. Terribile. Terribile. Cioè, te l'ha detto pure. Lasciamo stare. Pure il romano me l'ha detto. Pure il romano, appunto, non volevo dirlo. Cioè, lei che viene dal profondo nord. Va bene, di che parliamo oggi? Allora, questa sera vuoi parlare di... Non lo so. Come non lo sai, oh? Che cosa ci dice questa musica? Right, like city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. E vabbè, allora dopo questa idiozia che ci ha portato per sempre nell'abisso delle trasmissioni di Radio Onda Rossa, di che cosa parliamo questa sera? Beh, parleremo ovviamente di... di Las Vegas. Sì, o meglio... Un po' più di entusiasmo però, dopo tutta la canzone. O meglio, dell'incontro sulle autoproduzioni che si terrà anche quest'anno a Las Vegas. Viva Las Vegas. Va bene, poi... Poi parleremo un po' di quello che sta avvenendo in questi giorni alla Sapienza, all'Università La Sapienza. Immagino che insomma gli ascoltatori di Radio Onda Rossa ne avranno sentito parlare insomma spesso e volentieri, però ci piace ritornarci e parlare insomma di del convegno che è stato organizzato da Finmeccanica, Maglan, così, e leggeremo quello che è il nostro contributo a questa giornata. E poi direi varie ed eventuali, leggeremo comunicati e aggiornamenti dal mondo. Va bene, allora lasciamo finire Elvis Presley. Las Vegas. E poi ci mettiamo in collegamento. Viva! Svennebano? Ja! Svennebano? Är det en mikrofon då eller? Ja, men jag har precis lärt mig att rappa, så jag ska ju försöka här nu, okej? Kinixen! Tjenare, hejsan! Jag säger som det är, förbereder för mig, samme. Lyssna på bass, James Blunt. Gyllene tider, svarta rain, game. Och skyller på vinet, målar färgen gul och blå när det är dags för landskamp. Åker på dansbass, konserter och jävlas med dansk. Jag är ganska lätt på foten och blir tillsammans med sin bästa kompis. Sex framför hand på krogen, som Svensson. För den som känner igen sig och klappar händerna när de landar. De skäms sig, för de vet att det finns en annan. Exakt likadan på en strand i Sandhamn. Svenne Banan vill inte ha mig här, ha mig här. Jag drar mig iväg. Men ändå vill han veta var jag tog min väg. Sitter där och ser mig på sin storbildsskärm. Kommer i toppform med smör på sitt popcorn. Svenne Banan från Malmö till Jokkmokk, knock knock. Hej, gissa vem gets du, hör du? Vad fan har jag sett dig för nu? Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan. komplett ett ämne. Men det var ingenting som svennen kan. Det tvätt, äkta svenne balle. Allt han äger det från utomlands. Men han snackar som att Sverige är det enda landet som duger så han blir mallig. Jobbar 8-4 tills han blir skallig. Sen hem till LCD'n och dega. Men han fattar aldrig vad mer som finns att hämta. Förutom på slutet av veckan, för då kan han fucka ut. Ha sig en ur utomhus och däcka. Super och röker lite bräja på sin fest. För han länkar tillbaka till bräja till en gläs. Drar tjack i smyg för att palla med den stress som han byggt upp själv under ren tristess. Vilket sätt, vilken snubbe som oavsett vad vet bäst. Ser du om ingen annan har sagt att svennen är gratis underhållning för blatten. Svenne banan, svenne banan, svenne banan. Full hela helgen nykter på måndagen. Kommer bara ihåg att man har spytt till man somna. Klaga på vädret den flyktiga sommaren. Åka ragga bil och lyssna på Fronda. Utomlands och badar en vecka. Helst en ort där alla talar svenska. Full idiot i denna planet. Har lätt att packa kavja. Det ska vara som hemma. Familjesemester. En sån som man skiljer sig efter. Inget är bättre. Lämnad av frugan och dricker därefter. Delad vårdnad och med vinna till helgen. Jul och gran och älskar USA. Bil och brud och mat, kultur och hur det var. Ett liv som på film från Ikea blir superbra. Om man kan få det levererat nu idag. Livet runt din folkavagn eller på Stureplan. Det dricker folk kampanj. Det samma skrot och korn, det samma get och box. För alla somnar och vaknar till tv-shop. Du kan fortfarande skrika ut din ångest från en balkon någonstans. Och nu kan du satsa på att jag kör allsång på Skansen. Spela bort barnbidraget, belåna ditt hus. Du kommer inte få tillbaka det. Vem hade kunnat tro att vårt lilla skämt skulle kunna gro till ett sånt monster. Skägget är långt men dreadsen är tunga. Och min tunga är smooth. Svennebanan blev både sommarplåga. Yellow banana när jag bombar tåg. Du måste bo i zoo i mitt hårsvall. Älska eller hata, vilken jävla låt. Den enda som kan förena den autonoma vänstern med den extrema högen. För de matar skiten hela högen. Sen sålde den guld och tog över. Toppa listor i Danmark och Belgien. Skulle det vara min drivkraft, tänk igen. Det var seriös kritik av en kultur som bor och som mår som skit. Men du kan välja att lyssna på Eurodisco slingan. Så kan jag sälja fler singlar. Vi kan alla låtsas som ingenting. Bara knäppa våra fingrar. Skägg är vegan. Skägg är vegan. Skägg är vegan. Allora, sfumiamo i Kalashnikov perché abbiamo finalmente il collegamento tanto atteso. Siamo in diretta con Checco, un compagno di Las Vegas, in quelle delle colline bolognesi, diciamo intorno a Bologna, ecco. Ci senti? Sì, più o meno, sì, dai. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Senti, allora, noi vi abbiamo telefonato perché anche quest'anno, come già fate da un po' di anni, organizzate l'incontro sulle autoproduzioni. Se ci vuoi raccontare un pochino che cos'è, poi magari entriamo anche un po' più nello specifico, anche come è nato, perché organizzate questo appuntamento. Beh, sì, diciamo che l'incontro sulle autoproduzioni è già stato fatto qualche anno fa, più di una volta a Las Vegas. Un momento appunto per incontrarsi un po' tutti quanti e mettere a disposizione di tutti varie conoscenze che diverse persone potevano mettere sul tavolo e che la gente poteva imparare per appunto entrare un attimo nel mondo dell'autoproduzione, per imparare a fare da sé determinate cose. Quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo voluto dedicare tutti e quattro i giorni a un argomento unico, comunque che tutti gli argomenti fossero collegati ad un filo conduttore. E quest'anno siamo appunto su saldatura, per lo più battitura del ferro, quindi lavorazione di metalli. Ecco, io diciamo ho letto il programma di quest'anno e mi ha abbastanza incuriosito, perché cioè particolare come cosa, come mai proprio appunto la battitura del ferro è una cosa abbastanza particolare, non è un una cosa sì, tra le autoproduzioni di cui si sente parlare spesso, ecco. Anche io ho visto anche costruzione di forge, battitura, saldature, però insomma, come mai? Beh, diciamo che ci siamo messi un po' lì a tavolino, volevamo ripetere l'esperienza delle giornate di autoproduzioni e parlando un po', confrontandoci fra di noi, uno di noi ha detto ma perché non proviamo a parlare di saldatura, e poi da lì pian piano abbiamo cominciato a tirar fuori idee e anche in base alle conoscenze che avevamo pian piano sono venuti fuori tutte quelle cose che si possono trovare nel programma. Da lì non curiosiva molto anche l'aspetto della battitura, della forgiatura del ferro, quindi conoscevo un nostro amico ci aveva proposto di venire lì per costruire una forgia con dei materiali di recupero, quindi partire proprio da zero per l'autoproduzione della strumentazione necessaria per poi riuscire a lavorare i metalli. Da lì poi insomma abbiamo contattato diverse persone, ognuno ha messo un po' la sua idea e la sua disponibilità, e da lì abbiamo tirato fuori il programma che è andato. Senti, prima parlavamo di autoproduzione in un mondo in cui alla fine è tutto prodotto, comprato, in cui quindi la produzione, soprattutto la produzione industriale, comporta, al di là poi a parte lo sfruttamento degli animali, ma anche inquinamento e quindi la distruzione delle risorse della stessa terra. E ti volevamo chiedere se potevi un attimo spiegare meglio, magari per chi ci ascolta, proprio anche l'importanza dell'autoproduzione, che implica anche una sorta di autosufficienza individuale e la possibilità anche di barattare, di scambiare conoscenze, manufatti e via dicendo. Sì, diciamo, ecco, io adesso posso dirvi un po' la mia idea personale del perché dell'autoproduzione. Al di là di un arricchimento personale a livello proprio culturale, anche tecnico, innanzitutto soprattutto un modo per uscire fuori da quella logica di mercato per cui per ogni minima cosa tu prendi il telefono, alzi la cornetta, chiami qualcuno e tiri fuori dei soldi per farti fare un lavoro che magari mettendoci semplicemente mano, avendo un minimo di tempo in più, potrebbe essere semplicissimo da realizzare, e invece ormai la maggior parte di noi è abituata a chiamare l'idraulico, farsi mettere a posto il furgone dal meccanico con un grande spegno di soldi, ma semplicemente per la non voglia o l'impostazione mentale inesistente per mettersi lì a sbrigarsela di mano propria. In più, come dicevi tu, il fatto di scambiarsi le varie conoscenze, mettersi lì tutti assieme e mettere a disposizione degli altri quello che si è imparato durante le proprie esperienze, che possono essere di lavoro o di studio, qualsiasi altra cosa, comunque di vita, e quindi diventa anche uno scambio, nel senso che magari, per dire, una persona può pensare di essere già arrivata nel campo della conoscenza di, non lo so, in questo caso la saldatura, però magari venendo all'incontro potrebbe scoprire altre tecniche, altri modi di lavorare, qualsiasi altra cosa. Quindi è sia un arricchimento personale che un modo per fuoriuscire da una certa logica di mercato e oltretutto anche smuoversi un attimo con la mente e con il corpo. Sì, diciamo, poi a me l'aspetto che più mi affascina dell'autoproduzione è che è proprio un metodo diretto di uscire fuori dalle logiche del mercato e del capitalismo, no? Significa proprio estraniarsi da quello che è, diciamo, il motore principale della società, che è la compravendita delle merci. Nel momento in cui si autoproduce si mette, diciamo, un bastone sugli ingranaggi di questa macchina, perché in qualche modo non si partecipa alla società della compravendita delle merci, che è, diciamo, proprio quello su cui è basata la società in cui viviamo. Esatto, se tu autoproducendoti il maggior numero di cose possibili esci appunto da tutto questo circolo vizioso, per cui non vai a contribuire tutta quella macchina che è il mercato, l'economia, che tutti conosciamo e sappiamo dove ci sta portando, dagli effetti più baci del capitalismo a alla distruzione dei paesaggi, dei territori e anche della socialità e della società in sé. E oltretutto poi l'autoproduzione, come dire, è un passo successivo, perché sempre in questo discorso, prima dell'autoproduzione, quindi della produzione materiale c'è la conoscenza, no? E noi forse l'aspetto di controllo più forte di questa società è che noi viviamo in una società dove le conoscenze sono fortemente specializzate, cioè non ci si cura più da soli perché c'è il medico o il farmacologo, non si produce più cibo da solo perché si compra e via dicendo, tutte attività tra l'altro che in qualche modo comportano lo sfruttamento, per la maggior parte dei casi comportano lo sfruttamento degli animali o della terra. Invece forse prima ancora di autoprodurre è proprio importante l'elemento dello scambio delle conoscenze, cioè al di là della produzione materiale che poi voi fate in questo senso. Sì, esatto, questo è il punto, cioè di mettere a disposizione le varie conoscenze, e sempre parlando a titolo personale, per dire, è la prima volta che io partecipo a una prigione di autoproduzioni e ti dico, so già che imparerò un sacco di piccole cose che prima ignoravo totalmente e che mi saranno utili più avanti nella vita di tutti i giorni, così come ne sto imparando ora vivendo a contatto con la natura e uscendo appunto da quella logica per cui sì, per ogni cosa, cioè, come dicevi tu, ci curiamo chiamando il medico, affidandoci a qualcun altro che si avvale già di un'istruzione che comunque è impostata dall'alto e comunque non dipende neanche da quegli antichi saperi o comunque da quei saperi in generale che magari facevano parte prima della società, della collettività, ma ci affidiamo a uno specialista che viene messo su quasi sul piedistallo come se fosse un dio e senza mettere niente in dubbio. Invece il bello, la cosa utile di questa qua, cioè delle autoproduzioni in generale, è appunto di mettersi a confronto e condividere per qualsiasi cosa, in particolare i saperi e le conoscenze. Quando saranno queste giornate? Allora, comincerà il tutto giovedì sera, in cui la gente potrà arrivare e piantare la tenda. Poi ci sarà la cena intorno al falò e da lì poi tutti a letto e ci si sveglierà venerdì la mattina. Giovedì di esattamente, stiamo parlando del 20 se non sbaglio. Giovedì 20 giugno, di questa settimana. Uh-huh. E poi da lì dureranno per tutto venerdì, sabato fino ad arrivare a domenica sera. E un po' così, se vogliamo anticipare, come sarà la programmazione di queste giornate, come avete intenzione appunto di strutturarle? Allora, diciamo che vabbè, giovedì sera sarà più che altro accoglienza e un po' di conoscenza così del posto, cena, e poi si parte con la parte più, cioè, vera e propria venerdì mattina, in cui sarà data una prima infarinatura teorica di saldatura e poi da lì si partiranno in contemporanea diversi workshop. Chiaramente ognuno sarà libero di scegliere il workshop che più gli piace e gli si addice. Partiranno venerdì la costruzione di una forgia con materiale di recupero, poi la realizzazione di un divano a dondolo e poi ci sarà uno spazio che sarà dedicato alla pratica libera di saldatura, ovvero chi magari la prima volta che si mette mano a una saldatrice con elettrodi si potrà mettere lì e cominciare a fare un po' di pratica a casaccio con pezzi di ferro, così nel frattempo si fa un po' di mano. E poi da lì si va avanti per tutto il giorno proseguendo questi workshop, chiaramente sarà pranzo e cena. Poi sabato invece i workshop cambiano, ma saranno sempre tre in contemporanea, ovvero la costruzione di una stufa legna realizzata con una bombola del gas, il tutto utilizzando sempre il metodo di lavorazione della saldatura. Poi si costruirà un carretto rimorchio per biciclette e poi ci sarà un altro spazio dedicato alla battitura del ferro con la forgia che è stata realizzata il giorno prima, sulla quale si cominciano a costruire attrezzi appunto da usare con la forgia, quindi pinze e roba varia, e da lì per tutta la giornata. Domenica invece cambiano di nuovo i workshop e si farà un'altra stufa, ma un altro metodo alternativo alla saldatura, quindi preparazione per l'inverno per tutti. Poi si costruirà una vanga pettine per lavori agricoli e poi si forgerà una roncola, e tutto anche per tutto il giorno fino alla sera. Questo e bene senti, o male il, poi in teoria adesso abbiamo qui, il programma potrebbe subire qualche piccola variazione, ma in teoria durante le serate ci saranno anche proiezioni che però non anticipo ancora, più eventualmente qualche esibizione, ma quello lì si scoprirà quando si verrà su. Un po' di suspense la lasciamo, insomma. Ma più che altro abbiamo avuto un po' di ritardi nell'organizzazione, ma niente di che per il resto. Cioè le cose salienti sono già pronte. E senti, invece per insomma gli ospiti, tutti coloro che vorranno venire a trovarvi, come si devono organizzare, cosa devono portare? Allora, sicuramente si devono portare tenda e sacco a pelo, e, per dormire, ed eventualmente anche un bicchiere, una tazza, così ognuno se lo gestisce e non troveremo bicchieri di plastica in giro per tutta la campagna. E per chi vuole partecipare e per chi può magari mettere a disposizione anche qualcosa che ha in più di suo, di sicuro portare guanti e occhialini o maschera per saldare. E questo è molto importante perché si salderà tutto con saldatrice ad elettrodi, e indispensabile la protezione per gli occhi e per le mani, altrimenti ci ritroveremo tutti con gli occhi gonfi a fine serata e doloranti. E in più, per chi vuole, se qualcuno ce l'ha, può portare comunque elettrodi, trapani, punte, ferro vario, insomma materiale che riesce a recuperare o che vuole mettere a disposizione, quello è sempre benvenuto. Poi infine volevo insomma sottolineare che, avendo letto anche il vostro volantino, insomma invitavate anche la gente che aveva animali insomma a lasciarli a casa, comunque, perché voi avete comunque animali e quindi insomma magari potrebbe anche creare dei problemi, giusto? Sì, diciamo che abbiamo molti cani, abbiamo dei maschi e delle femmine che sono abbastanza territoriali, e abbiamo degli animali vari da cortile, galline, maiali, capre, quindi invitiamo la gente, se può, a lasciare a casa il proprio cane, a meno che non sia veramente tranquillo, che comunque se lo possa gestire in una situazione del genere, perché noi chiaramente avremo da star dietro sia ai vari workshop ma anche agli animali, perché quella è una cosa di tutti i giorni e quindi vorremmo evitare problemi, quindi abbiamo messo le mani avanti evidenziando bene questa cosa. Ok, senti. Questo qua sia per la salute dei nostri animali, ma anche per i cani che verranno ospiti. Certo, e insomma, così un po' per concludere, anche se così ci vuoi anche raccontare un attimo cos'è Las Vegans, chi siete, cosa fate, dove si trova, insomma, a prescindere appunto da queste giornate. Allora, Las Vegans si trova a una quarantina di chilometri da Bologna, più o meno. Uscendo e prendendo la Bazzanese, comunque la località è Monte Pastore, è una zona si trova più o meno a 600 metri d'altezza, siamo più o meno isolati in mezzo alla campagna. E il progetto è nato qualche anno fa principalmente per accogliere animali che altrimenti non avrebbero avuto un futuro. Quello è il progetto centrale, poi ogni anno si cerca di portare avanti qualche progetto collaterale, dalle autoproduzioni, quelle proprie casalinghe, fino a appunto organizzare concerti di benefit o appunto come questa volta giornate, una 3 giorni di autoproduzione e di incontro. Va bene, allora noi ti ringraziamo, invitiamo tutte e tutte chiaramente a partecipare a queste giornate e insomma a risentirci alla prossima occasione, insomma, quando avrete anche nuove iniziative, nuove situazioni da raccontarci. Certo, grazie a voi. Va bene, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, mettiamo una canzone e poi ritorniamo in trasmissione. Allora, ritorniamo in onda e insomma iniziamo un attimo a parlare di appunto quello che sta succedendo in questi giorni all'Università La Sapienza. E come appunto dicevamo prima e avrete più volte sentito parlare in questa radio, in questi giorni ci sta la quarta conferenza annuale sulla cyber warfare, dove troviamo diverse aziende, tra cui appunto Finmeccanica, la Maglan, che è una società, un'azienda produttrice di armi israeliana. C'è la partecipazione appunto dell'Università La Sapienza e anche dell'Università di Firenze. E insomma, questi mercoledì per la precisione ci sarà questa giornata in cui tutti questi personaggi accademici e aziendali si ritroveranno all'interno della Sapienza e parleranno per l'appunto di come rafforzare il rapporto, cioè di come rafforzare la protezione cibernetica all'interno delle infrastrutture. E vabbè, insomma, quindi un po' capire un po' come possiamo definirla la non mi stai ascoltando? certo che ti stavo ascoltando. Vabbè, non ti ho sentito cosa non c'è dire, nessuno che sta seguendo. Scusa, allora, ma ero distratto. Allora vabbè, cioè, diciamo, come al solito organizzazione, ma perché fa caldo? Io mi ero distratto un secondo, non so cosa, se ripeti la frase magari ti aiuta a concluderla. Vabbè, stavamo dicendo insomma cosa avviene in questi giorni, cosa sta avvenendo all'università, perché ci sarà questa conferenza. Allora, ci stanno questa serie di iniziative organizzate appunto dai collettivi universitari, perché dopo l'applicazione dello statuto Frati in seguito alla riforma Gelmini è stato messo nel regolamento di Ateneo dell'università che anche alla Sapienza adesso si può fare ricerca bellica in maniera palese e diretta. Prima non era così, prima diciamo che quando veniva fatta con secondi nomi e poi veniva diciamo le ricerche venivano usate. Adesso invece proprio direttamente l'Università La Sapienza ha creato proprio un posto dove fare ricerca su quella che viene chiamata cyber war, che sarebbe la guerra di tipo tecnologico. Noi magari quando pensiamo alla guerra pensiamo sempre ai fucili, alle bombe, ai carri armati, non è solo quello. E un esempio più diciamo significativo di cyber war è quello che c'è stato in Iran, dove tramite l'escamotage di una conferenza sono state regalate ai partecipanti di questa conferenza di scienziati, chiaramente, delle pennette USB che contenevano un malware, ossia un software che è in grado di danneggiare un computer o comunque prendere informazioni. Quando queste pennette sono state usate si è diffuso questo malware, finché una centrale nucleare iraniana è stata bloccata, con conseguenti danni a questa centrale nucleare e quindi con conseguenti danni al paese Iran e anche un indebolimento del governo di questo paese. Quindi diciamo è una guerra che non è finalizzata magari all'uccisione di persone, quanto piuttosto al come dire, all'annientamento dal punto di vista economico, o comunque a far cadere dei governi, a far vacillare dei governi per favoreggiare altri governi che sono più favorevoli agli interessi di paesi esteri. Questo è cyber war. Perfetto. E noi di Radio Possum insomma ci occupiamo anche di questo, perché uno dei tanti campi di applicazione della sperimentazione animale, anche se non viene mai detto perché fa un po' crollare la retorica della vivisezione come mezzo per salvare le vite umane, ma uno dei campi, dei principali campi della sperimentazione animale è quello anche a fine militare, cioè sugli animali vengono testati sostanze tossiche, armi, missili, tecniche chirurgiche e via dicendo. Perfetto, proprio per questo insomma abbiamo pensato e voluto scrivere un comunicato, due righe, insomma, che per partecipare anche da un nostro punto di vista strettamente antispecista a queste giornate. E adesso ve lo reggeremo e passiamo un attimo la parola a una new entry di questa sera. Noi sacrifichiamo gli animali per salvare gli esseri umani. Eccola la mistificatoria versione di Comodo, ripetuta sprombattuto dai vivisettori. La tortura, le violenze, la morte inferta a decine di migliaia di animali ogni giorno in quei campi di sterminio moderni chiamati laboratori ripongono la loro legittimità morale nel fine ultimo di salvare vite umane. Peccato che dietro questa patina di neoumanesimo ci siano le macchie maleodoranti di inconfessabili interessi economici, la bulimia delle multinazionali del farmaco, dei colossi della chimica e dell'agroalimentare, l'ambizione dei ricercatori e dei dipartimenti universitari, il conto in banca degli allevatori e dei fornitori di cavie e di strumenti, delle apparecchiature per gli esperimenti al mangime e di tutti coloro che a vario titolo e a vario grado sono legati al big business della sperimentazione animale. Ancora di più le menzogne dei vivisettori, salvare le vite umane, crollano come castelli di carta in un caso particolare, la sperimentazione animali a fini militari. Uccidere gli esseri animali per uccidere meglio gli esseri umani. I centri di ricerca militare di moltissimi paesi, tra cui ovviamente c'è anche l'Italia, tengono prigionieri decine di migliaia di animali. I carcerieri di questi esseri viventi sono gli stessi ricercatori che di fronte agli schermi televisivi proclamano il loro amore per la vita umana. Peccato però che il fine ultimo di queste ricerche sia quello di creare eserciti e armi più efficienti per uccidere più e meglio il nemico. Il come perseguire questo obiettivo è un delirante elenco di orrori senza fini, di cui qui riportiamo solo una piccola parte. Asini, scimmie, maiali e cani usati come bersagli mobili per proiettili ed esplosivi, ovini, roditori, scimmie, cani, gatti e maiali utilizzati come cavie per prove di guerra batteriologica tramite l'esposizione a sostanze tossiche, gas, sarin, tabun, soman, delfini utilizzati per la guerra in mare, ovini usati per interventi di chirurgia e amputazione di arti, ad esempio appendere a testa in giù le capre per cuoterle fino a ferire le loro zampe e poi amputarle senza anestesia. Il cortocircuito tra la realtà dei laboratori e le giustificazioni invocate dagli assassini in camice bianco è talmente forte e stridente nel caso della vivisezione a fini militari, che non casualmente questa è la più nascosta, la meno evocata, la più difficile di cui parlare per le coltre di segretezza che avvolge i dati degli esperimenti e degli animali usati, l'identità degli enti coinvolti e gli obiettivi delle ricerche. Mai, come in questo caso, la liberazione animale è anche inevitabilmente liberazione umana, perché nessuno sia più una cavia. Allora, torniamo in diretta e cominciamo a leggere un po' di notizie, comunicati, appuntamenti vari. Quello che vi vengo a leggere è il comunicato, o l'appello, come lo si vuol chiamare, di Paola, la compagna di Francesco Puglisi, detto Jimmy, uno dei compagni condannati per i fatti del G8 di Genova 2001, in un primo momento irreperibile, poi in questo momento arrestato a Barcellona e ora trasferito a Madrid. Ma vi vengo a leggere il comunicato. Ciao, sono Paola, la ragazza di Jimmy, Francesco Puglisi, arrestato da poco a Barcellona per i fatti del G8 di Genova, e volevo comunicare un fatto importante. Anzitutto ho visto il vostro articolo su Jimmy, questo qui è un comunicato che è comparso su informazione.info, e come normale e bene che fate, ne state parlando. Volevo aggiungere che in questi giorni Jimmy riesce a chiamarmi per pochi minuti dal carcere di Madrid e mi ha comunicato che sta in condizioni difficilissime, dove vive malissimo la situazione perché è stato inserito in una sezione antiterrorismo in isolamento totale, sezione con quelli di Al-Qaeda ed ETA. Mi comunica che sta malissimo ed è depresso, che fa fatica a mangiare, in poche parole sta molto male. Mi ha detto che la mia presenza è l'unica cosa che lo faccia stare meglio, o comunque sono l'unico appiglio positivo in tutta questa situazione. Mi ha detto che sabato 22 giugno posso andare a trovarlo, me lo farebbero vedere, ma il problema qui è economico, poiché gli unici treni che fanno tratta a Barcellona-Madrid sono treni di lusso, molto cari. Mi hanno parlato conoscenti che andate e ritorno dovrebbero costare all'incirca 150 euro. Io non posso permettermi questa spesa perché ho la pensione di invalidità che è 280 euro, ma li ho dati tutti il primo giorno per pagare la stanza, quando all'epoca c'era pure Jimmy con me. Chiedo disperatamente aiuto a tutti per farmi avere questi soldi, sia perché voglio vederlo, ma non tanto per me, ma quanto per la situazione precaria e delicata e fisica e psichica che vive Jimmy, dove per aiutarlo veramente bisogna che vada a fare questo colloquio per sollevarlo di morale, per quanto possa aiutarlo la mia visita, che sicuramente per lui è fondamentale e vitale. Ci sarebbe l'opzione bus, che è economica, ma purtroppo è da scartare a priori, perché sono 8 ore di viaggio da fare la notte e avendo dei ferri, ossia dei sostegni chirurgici alla colonna vertebrale, non posso dormire in posizioni scomode sull'autobus, non me lo posso permettere, anche perché ad aggravare la situazione ci sarebbe il fatto che dopo questo viaggio di andata e dopo il colloquio dovrei farmi questa odissea la stessa notte, oppure dormire in un albergo per riprendermi dal viaggio, ma anche quello ha dei costi e quindi siamo punto da capo. In poche parole, fisicamente non posso permettermelo. Quindi vi lascio sia il contatto bancario dove versare i soldi che arriveranno direttamente a Jimmy, sia la mia carta di credito PostePay dove versare i soldi che serviranno per fare il biglietto del treno. E allora vi diamo quelli che sono gli estremi. Allora, per dare dei soldi a Paola per permettere di fare questo viaggio, la carta è il numero 4023 6005 90587608, ripeto 4023 6005 90587608, e comunque maggiori informazioni le trovate sul sito www.informazione.info. Mentre i contatti di Jimmy, se gli volete scrivere per esempio una lettera, è Francesco Puglisi, Madrid 5, sotto del Real, centro penitenziario, che si scrive penitenziario, Carretera Comarcal 611-28791, sotto del Real Madrid, e firmato alla fine fuori tutti dalle galerie, appunto firmato da Paola, la ragazza di Jimmy. Ok, io ho finito. Ok, e niente, volevamo dire due parole su un fatto di cronaca abbastanza brutto che è avvenuto in Sicilia, per noi e non solo per noi molto significativo di come lo sfruttamento animale si leghi poi allo sfruttamento umano, ed è la notizia di ieri della morte di 6 migranti al largo delle coste siciliane mentre cercavano di arrivare in Italia. La particolarità di questa storia però è che questi 6 migranti, prendiamo dal giornale Repubblica di oggi il racconto di uno dei, probabilmente un ragazzo di origine eritrea che è appena arrivato a Lampedusa, ha raccontato i fatti. Io e alcuni altri miei compagni ci siamo buttati a mare sperando che un peschereccio che loro avevano avvistato ci avrebbe aiutati. Ci siamo aggrappati alla rete, chiamavamo aiuto, ma loro ci gravano di buttarci a mare, di tornare sul gommone. Qualcuno ha provato ad aggrapparsi ad un cavo che portava alla fiancata, ma i marinai ci minacciavano e poi hanno tranciato quella cima. La maggior parte dei migranti riesce a salvarsi rimanendo attaccati alle gabbie di un allevamento intensivo di tonni in pieno mare, ma alcuni sono morti proprio in conseguenza del fatto che i marinai del peschereccio hanno tagliato il cavo che gli permetteva a queste persone di sopravvivere, diciamo, di rimanere a galla, e tra i 6 e i 7 migranti sarebbero morti. Ci sentiamo perfettamente di riprendere il quanto scrive Nemesi Animale oggi sul suo sito, e cioè che questo raffronto, cioè il raffronto tra la morte di alcuni individui, di alcune persone, e la situazione di prigionia di migliaia di tonni dentro quelle gabbie, e morte delle persone e prigionia degli animali, che è causata dagli stessi individui, cioè dagli stessi pescatori che allevano e uccidono barbaramente i tonni e poi non si fanno scrupolo di lasciare annegare decine di migranti. Questo raffronto, come scrive Nemesi in Animale, che a prima vista potrebbe sembrare provocatorio o addirittura fuori luogo, esemplifica invece nel migliore dei modi la mentalità specista che sta alla base della società in cui viviamo. Una mentalità violenta e senza scrupoli, che guarda al soddisfacimento dei propri interessi economici sulla pelle degli individui più deboli e oppressi. Se il moto peschereccio avesse fatto salire a bordo i migranti, infatti, probabilmente avrebbe perso il suo prezioso carico di tonni. E niente, quindi pensiamo che fatti del genere confermano ancora una volta come lo sfruttamento animale e lo sfruttamento umano siano strettamente legati, e come conseguentemente anche la liberazione animale è al tempo stesso strettamente legata alla liberazione umana. Mettiamo una canzone e poi concludiamo la trasmissione. Una grande hit. They're out of luck. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Rescue thanks, no tissue for the life served on our plate. Slice it up. bene, ritorniamo in onda dopo questa canzone un po' così. E... come un po' così? Oh? Cioè, questa canzone ha fatto la storia di Radio Possum. Ma come ti permetti? Ma che cosa stai dicendo tu? L'abbiamo messa nella prima trasmissione, bellissima. Ma mo la rimetto, Vampire in You. Vabbè, andiamo avanti. Allora, leggiamo un attimo una comunicazione che troviamo sempre su www.informazione.info. Repressione, perquisizioni e fogli di via in Romagna. In questi giorni in Romagna una serie di misure repressive colpisce un grande numero di compagni di diverse città, in particolare Forlì, Cesena e Lugo. Una perquisizione, 4 fogli di via della città di Forlì, 3 avvisi orali, 47 procedimenti di indagine, più altri 4 a carico di minorenni, per fatti relativi all'occupazione della Maceria e del giardino occupato a manifestazioni antifasciste ed in solidarietà allo sgombero del Maceria che hanno avuto luogo a Forlì durante l'inverno passato, oltre a singoli episodi specifici avvenuti nel corso delle sopracitate mobilitazioni. Vabbè, al momento appunto queste sono le informazioni che è possibile trovare e attendiamo e vediamo insomma se usciranno nuove comunicazioni. Mentre sul sito dei nostri cari amici di Federfauna, ricordiamo Federfauna è la confederazione sindacale degli allevatori, commercianti e detentori di animali, leggiamo una notizia: Fano, pellicceria Vergoni sotto attacco degli animalisti, vernice rossa sulle vetrine della pellicceria Vergoni, un atto intimidatorio scoperto dalla vigilanza privata che passando in via Nolfi ha notato ciò che era accaduto nella notte. Non è la prima volta che questa pellicceria, che già nel 2006 è finita nel mirino degli animalisti, 6 anni fa di fronte alle vetrine del negozio fu lasciato un pacco bomba. Si trattava di un ordigno artigianale formato da 4 bombolette di gas da campeggio che sarebbe potuto esplodere causando danni e vittime. E questo e questo è il comunicato di Federfauna, come sempre molto eloquente su quello che succede a vivisettori, allevatori, commercianti e detentori di animali. Poveri cicci. Va bene. Va bene, a questo punto direi vogliamo far partire un'ultima canzone prima dei saluti e così dei contatti? No. No? Vabbè. No, perché non l'ho preparata. Allora, vabbè, dai, su, forza. E allora niente, diamo i contatti. Dai, no, l'ultima canzone, su. Vabbè, allora tu di qualche cosa mentre io metto una canzone. Vabbè, facciamo venire il babbo che ha sempre un sacco di cose da dire, a caso pure. Aspetta che ti apro il microfono senza fare lo stupido, per piacere. Dunque, vi vogliamo bene a tutti, salutiamo chi ci ascolta, soprattutto il nostro amico che ci manda sempre lettere e materiale comunque di approfondimento, che ringraziamo. E niente, se Mocio si sbrighi a trovare. Sì, sì, l'ho trovata e questa la dedico proprio a te che hai iniziato. Sarà un altro capolavoro sicuramente. Sì, a parte che sì, ma comunque questa te la dedico perché so che tu stai iniziando un nuovo stile di vita e quindi ecco, ti dedico questa canzone. Watch the TV and kill your brain. Drink your beer and point the blame. Smoke your cigarettes down to the stubs. Getting dressed, you're a bunch of slobs. You complain about the government and everything they say. But don't you realize with your hand as a push and fill up once you're buying in. Go to sleep, pay your rent. Don't you see you're turning out like your parents? Go to college, get a job and buy a house and drive a car. If you're lucky, your revolution diction's along. Have your life with all the drills. Pay your taxes, pay your bills yourself. Deeper into the grave. Buy the shit that you don't need. Plant the corporate seed. Can't you see you're keeping yourself enslaved? Well, I don't wanna be part of your hypocrisy. Well, I don't wanna support the things I say I hate. Cause that'll make a hypocrite out of me. See the protest standing on the streets, they're